dolce invadente un po' la nostalgia. Ma quanti ricordi non buttarli via. Prende il volo la mia fantasia con te. Svegliarsi e non ci sei. Svegliarsi e non ci sei. Quante volte ho vissuto io, quanti sogni ho buttato via, quanti amori ho vissuto sperando fossi tu, svegliarsi e non ci sei. Non li sento più, senza rimpianti del tempo che passa e se ne va. Svegliarsi e non ci sei. Svegliarsi e non ci sei. Amare amore che